Radio Onda Rossa 87.900 in FM, sono praticamente quasi vicine le ore 10.30 e noi iniziamo uno spazio di approfondimento nel quale parleremo di acqua pubblica e nucleare, dato che si avvicinano, almeno così dovrebbe essere, le scadenze referendarie all'indomani del deposito di quasi 1,5 milioni di firme e dell'accettazione del parere favorevole espresso da parte della Corte Costituzionale, che ha giudicato ammissibili alcuni dei quesiti che sono stati appunto depositati. Ora spetta, come molti sapranno chiaramente, al Presidente della Repubblica fissare, al governo fissare le date del referendum, che comunque è atteso per la prossima primavera, quindi in un periodo presumibilmente tra aprile e giugno. È chiaro, insomma, che adesso quindi si tratterà di andare avanti con le campagne, parti delle quali chiaramente sono già state avviate da parte dei comitati a livello nazionale e territoriale per sostenere appunto questi referendum. Se da una parte però la campagna per la ripubblicizzazione dell'acqua pubblica e quindi per abrogare in maniera però non parziale ma totale, diciamo, il decreto Ronchi, e lo diciamo questo proprio perché uno dei quesiti, fortunatamente quello che è stato giudicato inammissibile, in realtà lasciava una porta aperta alla privatizzazione, ci riferiamo al quesito presentato dai dipietristi, insomma dall'Italia dei Valori. Mentre dicevamo su questo tema, comunque ci sembra che dei risultati anche nel corso della raccolta di firme siano stati raggiunti e probabilmente così, se vogliamo ragionare, anche se parlare di opinione pubblica non è poi sempre forse molto corretto, perché diciamo l'opinione pubblica poi è qualcosa di abbastanza astratto e soprattutto una categoria cara ai media e alle loro manipolazioni. Ma insomma, la percezione è che su di uno di questi temi, cioè l'acqua pubblica, ci sia comunque una certa vivacità di dibattito. Al contrario, sull'energia nucleare questa vivacità di dibattito non si riscontra, e per giunta l'impressione è che, data la campagna martellante che invece viene dispiegata dalla controparte con diciamo varie risorse, anzi con un diciamo dispiegamento di risorse davvero invidiabile da un certo punto di vista, perché tra spot e quant'altro ci stanno a fare una capoccia enorme. Insomma, l'impressione è appunto quella che ci sia una certa impreparazione, vogliamo dir così, nell'affrontare questa scadenza referendaria, e che tutto sommato, insomma, le cose potrebbero anche non andare bene. E questo in un paese nel quale, diciamo, la battaglia politica sul nucleare è stata condotta, anche se un bel po' di anni fa, ma con uno spirito di ben altro tipo. Insomma, eravamo comunque ancora, se non nel pieno dell'onda lunga dei movimenti, comunque ancora in una fase di tenuta sicuramente alta. Ricordiamo insomma quel 1987, non dico come se fosse ieri, ma quasi. Chiaramente c'era anche l'onda degli eventi di Chernobyl, che sicuramente ha in parte anche influenzato forse l'esito di quella consultazione. Sta di fatto che il responso politico di quel referendum fu chiaro e da un certo punto di vista diciamo incontrovertibile, cioè il paese si schierò per il no al nucleare. È chiaro che poi insomma gli interessi in gioco sono talmente tanti, le forze in gioco sono così potenti, che un ribaltamento è possibile, è possibile, anche perché d'altra parte, insomma, le maggiori tendenziosità, diciamo, si nascondono proprio laddove magari uno non se le aspetterebbe, e cioè, insomma, anche nel campo degli ambientalisti, e questa è una cosa magari di cui anche parleremo oggi. Io quindi cedo la parola, insomma, a chi mi farà compagnia in questa chiacchierata, c'è cioè un altro compagno della nostra redazione, chiaramente, e lo invito quindi innanzitutto a questo primo, diciamo, intervento, se vogliamo così, riassuntivo, ma che soprattutto ci dia un po' il senso anche un po' di questa difficoltà che possiamo ben dire, insomma, cominciamo a palpare soprattutto rispetto alla questione del nucleare. Cominciamo, direi, ovvero precisiamo meglio, no? Inquadrando meglio la questione dei referendum, perché saranno sicuramente due come argomento, tre come quesiti e forse potrebbero diventare anche quattro, perché la raccolta di firme fatta principalmente su tre temi dall'Italia dei Valori, appunto da Di Pietro, riguarda anche il legittimo impedimento che potrebbe ritornare come quesito, in quanto la recente presa di posizione della Corte Costituzionale sulla legge del legittimo impedimento, che ne ha cancellate delle parti, ma non tutta, adesso la Corte si deve ripronunciare se il quesito di Di Pietro su questa questione, su questa legge del legittimo impedimento, è ancora ammissibile oppure no, perché mi sembra di ricordare che lì era l'abrogazione totale della legge, mentre sugli altri quesiti dell'acqua e del nucleare sono abrogazioni parziali di leggi esistenti, su quella del legittimo impedimento era un'abrogazione totale. Quindi adesso la Corte Costituzionale dirà se le sue modifiche alla legge sul legittimo impedimento sono tali per cui non ha più senso andare a votare sul quesito posto da Di Pietro, oppure se viceversa questo rimane in piedi. Diciamo, questo è sicuramente secondario rispetto alla discussione dei contenuti sugli aspetti più significativi, che sono sicuramente quello dell'acqua e del nucleare, ma in ogni caso va tenuto in conto perché il quesito è ancora pendente per certi versi. Che dire subito di questa chiamata ai referendum? Direi che è una cosa non voluta, non auspicata, insomma, almeno per quanto riguarda, diciamo, il nostro punto di vista, se così mi posso permettere di dire, insomma, della radio e penso anche di buona parte dei movimenti che cercano di esprimere conflittualità sul territorio in varie situazioni. Non voluto e non auspicato perché, diciamo, francamente, insomma, lo strumento referendario non è che abbia mai prodotto in questo paese negli ultimi anni risultati positivi, insomma, no? La gente è stata chiamata alle urne e mi sembra che da più di 10 anni non si sia raggiunto il quorum, insomma, lo stesso referendum sull'articolo 18, insomma, sia pure perso per pochi voti, anzi, proprio perché perso per pochi voti, ha fatto riflettere tanti sulla ingannevolezza, sulla problematicità dello strumento referendario, perché dice sì, per un punto Martin perse la cappa, però lo perde, insomma, i referendum si perdono in due modi e sono due modi di perderlo contro uno solo, di vincerlo: uno perché la gente non risponde al quesito posto e due perché non si raggiunge il quorum, cioè il non raggiungimento del quorum è comunque una sconfitta per chi ha proposto il quesito. Quindi se la riportiamo all'attualità e ai quesiti prossimi venturi, su cui saremo tutti chiamati a esprimerci, quindi acqua e nucleare, dire aboliamo le leggi che riportano il nucleare in Italia e che consegnano l'acqua privatizzata, la privatizzazione dell'acqua, appunto, l'acqua ai privati, alla speculazione, eccetera, eccetera, se non si raggiunge il quorum, significa, questo viene interpretato come un avallo della popolazione tutta, perché poi il referendum parla per tutti gli italiani, e visto che se vince appunto 50% più un voto, che sono d'accordo e sul nucleare e sulla privatizzazione dell'acqua nel caso non si raggiungesse il quorum. Quindi il rischio di questo strumento di consultazione è sicuramente forte, insomma, no? Certamente poi ci sono delle differenze, tu già lo dicevi, tra l'acqua e il nucleare, soprattutto ci sono differenze per come si sono svolte le cose negli ultimi anni, cioè è indubbio che l'acqua, il problema dell'acqua ha interessato, ha permeato proprio diversi strati della società, insomma, no? E a diverse latitudini, sicuramente da nord a sud, insomma, il problema dell'acqua è forte in Italia, pur essendo l'Italia, potremmo parlarne a lungo, insomma, un paese ricco d'acqua. Ci sono le perdite, gli acquedotti, la manutenzione, tutte queste cose, insomma, però è altrettanto vero che tutto questo è stato poi frutto di appropriazione da parte di speculatori privati, insomma, che de società dell'acqua, anche multinazionali, insomma, la stessa CEA, per citare una società che a Roma si conosce bene, è già di per sé una multinazionale dell'acqua, non solo opera in tantissime parti d'Italia, ma se per questo opera anche all'estero. Poi ci sono le società francesi, eccetera, eccetera. Cioè, la bruttissima e inflazionata parola di bene comune, in questo caso applicabilissima all'acqua, per carità, insomma, no? Acqua, aria, queste cose, dice, di chi è l'acqua, è oggetto di speculazione da parte del capitale, ovviamente non da oggi, da tempo, insomma. Però negli ultimi 20-30 anni sicuramente questo atteggiamento speculativo si è fatto più pesante, più preponderante, insomma. Adesso le grosse multinazionali francesi, la Vivendi, la General Dassault, eccetera, eccetera, e anche altre viaggiano proprio per i continenti alla ricerca di fonti di acqua dolce di cui appropriarsi. Se dovessimo fare un esempio, anche tutta la guerra dei Balcani degli anni 90 ci aveva dietro scenari di questo tipo, insomma, conflitti sull'acqua riguardano il Medio Oriente, il Giordano, riguardano anche la Turchia, insomma, no? Ci sono, perché, come viene utilizzata, eccetera, eccetera, insomma. L'acqua può essere, anzi è sicuramente fonte di, non solo di conflitti tra stati, di conflitti tra nazioni, ma è fonte anche, proprio per l'appropriazione che ne fa il capitale, anche di conflitti di classe, se si volesse arrivare a un discorso di questo tipo. Diciamo che per restare però, insomma, con i piedi per terra all'attualità, quello che si pone oggi è un po' una simulazione del conflitto su queste cose, no? È una simulazione dove per l'acqua, come è giusto dire, questa simulazione è più rispondente a un'esigenza vera, perché comunque l'attività che si è espressa sul territorio negli ultimi anni ha investito tantissimi comitati dal nord al sud dell'Italia. Ha espresso anche una conflittualità sul modo di rapportarsi alla gestione degli acquedotti, alle tariffe, quindi con autoriduzioni, con forme di lotta, con occupazioni, con mobilitazioni, con tutto quello che vogliamo. Quindi sicuramente è un tema che ha fatto riflettere tantissime persone ed è un tema importante e strutturale. La stessa cosa non si può dire per il nucleare, sicuramente tu lo dicevi, il nucleare oggi, per modo di dire, piomba non inaspettato, qui sarebbero da fare le osservazioni e le critiche, insomma, più ampie, ma piomba sicuramente a freddo, insomma, ecco. Piomba a freddo su un movimento che non esiste, non esiste un movimento antinucleare, esistono tematiche ambientaliste, questo sì, esistono da tempo, ma proprio perché sono, secondo me, rimaste confinate a temi ambientalistici e non hanno colto il nesso tra non solo la questione nucleare, ma la questione nucleare dentro la questione energetica, che a sua volta sta in strettissima relazione col sistema produttivo, quindi col modello sociale dominante, insomma, di produzione e consumo non solo di energia, ma direi soprattutto di merci, e l'energia segue questo ragionamento, insomma, l'energia serve a produrre merci e in qualche modo poi i consumi che ne derivano sono fortemente influenzati, insomma, no, da questa spinta al consumo in tutti i sensi, dalla spinta a quello che si chiama poi consumismo, insomma, così via. Quindi fino a oggi, viceversa, questi aspetti non sono emersi se non in piccolissimi in piccole dimensioni, e non hanno investito un dibattito generale, non sono presenti, cioè qui in Italia non c'è nessuno che mette in discussione la proprietà dei mezzi di produzione dell'energia, per capirci, insomma, no? Nel settore energetico, sia l'elettricità, sia il gas, eccetera, eccetera. Qui è tutto funzione di un forsennato e aggressivo mercato libero dell'energia, che è predominio e non può essere altrimenti di interessi speculativi. Anche qui, multinazionali o non multinazionali, non ci sono più le sette sorelle del petrolio, perché gli scenari sono cambiati, ma e non ci sono apparentemente delle multinazionali elettriche, viceversa invece è esattamente il contrario. L'Enel è oggi una multinazionale elettrica, insomma, perché ha investimenti in Sud America, ha investimenti nell'est d'Europa, ha investimenti in Francia e così via, e lo stesso dicasi per EDF, per E.ON, per società grosse tedesche che sono nate come utility nel dopoguerra, e quasi tutte a carattere nazionalizzato, cioè di proprietà dello Stato. Oggi sono con la liberalizzazione dei mercati, la spinta appunto al liberismo, sono diventate delle multinazionali dell'energia, principalmente energia elettrica, ma non solo, e quindi operano su dimensioni di carattere internazionali con spregiudicatezza, ovviamente mettendo al primo posto l'interesse degli azionisti, il profitto, e non certamente, diciamo, un discorso di uso razionale dell'energia, insomma, no, se volessimo poi riportarla a elementi di saggezza, di cosa. Per cui, tanto per chiudere, diciamo, questa prima introduzione, oggi ci troviamo a dover affrontare queste tematiche in un possibile, è giusto dire possibile, no? Possibile e probabile, non lo so, tornata referendaria che dovrebbe tenersi formalmente entro giugno, qualcuno dice entro il 15, ma potrebbe essere anche una data successiva al 15, lo deciderà il governo da questo punto di vista, quindi magari il governo ha tutto l'interesse a spostarlo proprio per mandare deserte le urne, a spostarlo quanto più giugno, già un mese se non di vacanza, perlomeno, insomma, si avvicina l'estate, quindi andate tutti al mare, questo sarà un po' sicuramente l'atteggiamento da parte del governo, insomma, per quanto riguarda questi referendum. Però c'è sempre da dire che i referendum si terranno entro questa data se il governo tiene. Se il governo dovesse cadere, i referendum saltano e se ne riparlerà magari fra qualche anno, perché poi bisogna trovare le finestre. I referendum non si possono svolgere in prossimità di elezioni amministrative o politiche, quindi bisogna tener conto del calendario che già c'è, a prescindere se il governo cade. E per quanto riguarda l'anno prossimo, non so se ci sono amministrative o addirittura europee, per cui potrebbe tranquillamente slittare almeno di un paio d'anni, per quello che ricordo, insomma. Quindi l'ambito di questa prima di questo primo inquadramento della situazione è un po' questo, insomma, ecco, si arriva a questa scadenza forzati da un'iniziativa dell'Italia dei Valori, che ha risposto, che ha creduto di rispondere a modo suo e per suoi interessi, insomma, con la raccolta di firme a iniziative legislative del governo Berlusconi, strumentalizzando questo sicuramente, il Movimento per l'Acqua, per la ripubblicizzazione dell'acqua, che era nato ben prima, insomma, dell'iniziativa di Di Pietro, insomma, di raccogliere le firme, e poi strumentalizzando e mettendoci dentro appunto il legittimo impedimento del nucleare, una raccolta unica di firme che comunque poi ha portato a questo pronunciamento. Pronunciamento che se il governo non cade e deciderà la data del referendum, significherà una campagna, non ricordo se sono 60 o 45 giorni, una cosa del genere, per la campagna referendaria, in cui saremo bombardati e costretti in qualche modo da questo vincolo, insomma, a ragionare su questi temi, però ragionare col meccanismo tipo ghigliottina, che è quello del referendum. Insomma, il referendum è una ghigliottina, per quello che dicevo prima, insomma. Eh sì, insomma, ce ne siamo accorti spesso anche in passato, tu lo ricordavi, hai fatto riferimento al referendum sull'articolo 18, quello era per l'estensione anche alle imprese sotto il numero dei 15 dipendenti dell'articolo 18, parzialmente ti correggo Giorgio perché non è che non passò per pochi voti, in realtà il distacco fu anche abbastanza notevole, in quella circostanza poi in realtà si provò, se vogliamo anche giustamente, a valorizzare, insomma, e a capitalizzare il risultato della stessa tornata referendaria, perché erano circa 3 milioni i voti che si espressero per appunto l'estensione di quell'articolo anche alle imprese più piccole, e in un certo senso il risultato non era completamente da buttare via. È chiaro che, insomma, in questo caso il non raggiungimento del quorum sarebbe chiaramente, aprirebbe un problema scottante e scenari, non vorrei dire apocalittici, ma insomma poco ci manca, anche perché poi la questione del nucleare apre problemi relativi non solo all'economia, ma chiaramente anche alla sicurezza, che certamente non possono essere ritenuti di secondaria importanza. Un po' di musica e ritorniamo in voce. Allora, ritorniamo in voce, Radio Onda Rossa, ragionavamo appunto su questi quesiti referendari che, se il governo terrà, saranno effettuati non più in là del mese di giugno. E dunque alcune notizie daremo ora su passaggi che saranno messi in piedi proprio in questi giorni da parte del Forum per l'acqua pubblica. Diciamo anche però che qualcosa di buono sicuramente questa consultazione, in particolare nello specifico quella relativa all'acqua pubblica, se la porta appresso, se non altro perché comunque pone anche la possibilità di riparlare della ripubblicizzazione di altri importanti settori, servizi municipali, che comunque in un modo o nell'altro dovrebbero comporre, se diciamo gestiti con criteri e misure diciamo a vantaggio della collettività, potrebbero appunto importarci, perché a partire da essi si misura anche un po' la qualità della vita, no? E ci riferiamo a servizi municipali di impatto locale e pubblico molto rilevanti, come il trasporto e l'AMA. E dunque, questo sicuramente è un fattore importante. Possiamo anche magari anche ragionare e ipotizzare sui possibili scenari che si possono aprire anche nel caso magari in cui il governo caschi, nel senso che poi il decreto Ronchi che cosa dice? Dice che entro un certo periodo di tempo, comunque almeno il 40% diciamo, no? Diciamo dei capitali che gestiscono il servizio idrico dovrebbero cascare in mano ai privati. Vogliamo però anche ribadire una cosa, che se diciamo è stata messa in moto una campagna rispetto alla quale poi le risposte sono anche state piuttosto convincenti, e ci riferiamo chiaramente al discorso relativo all'acqua, è anche possibile che gli strumenti da mettere in campo per evitare la privatizzazione possano ampliarsi. Cioè, non è il referendum la panacea e l'unica soluzione possibile, ma se un percorso è stato avviato e se questo ha dato dei risultati, è possibile anche, diciamo, come dire, convertire tutta questa forza che al momento, visto che c'è questa consultazione referendaria, è dirottata su questo piano, ma che si potrebbe anche così, no? Convertire su un piano diverso, così come si fanno le lotte per qualsiasi altra questione, no? E quindi magari riuscire a trovare dei varchi, delle soluzioni, delle vie d'uscita dal decreto Ronchi alternative al quesito referendario. Lo diciamo perché vogliamo anche così non spaventare più di tanto ascoltatori e ascoltatrici che pensano che si possa andare soltanto dalla padella alla brace, cioè o te becchi sto governo con diciamo la possibilità magari di schivare il decreto Ronchi col referendum, oppure casca il governo però ci ritroviamo con la patata bollente della privatizzazione dell'acqua. Beh, non è detto, insomma, dei passaggi possono essere articolati anche in un tempo, insomma, in cui casca l'opzione referendaria, ma rimangono aperte tutte le altre opzioni. Cioè, tanto per magari sintetizzare, non è che l'opposizione si faccia solo con il referendum, insomma, no? Questo è il discorso, né che stando all'opposizione non si riesca a influire, per non dire governare, il conflitto, insomma, perché altrimenti, se appunto da 10 anni, cioè, le varie tornate elettorali referendarie sono date buca per i promotori, e questo dovrà significare anche che non si può ripercorrere sempre la stessa strada, e che comunque non è soprattutto l'unica strada, anzi è forse una strada, per i motivi che dicevamo prima, da tenere un po' da parte e mantenere sempre l'idea che le cose si possano cambiare anche in altro modo, e soprattutto appunto con una diffusione del conflitto, entrando in merito delle questioni che di volta in volta si pongono, insomma, altrimenti, se no, appunto, come dicevi tu, oddio, c'è il referendum, qui se lo perdiamo è finito tutto, insomma, no, guai a pensare una cosa del genere, insomma, no, per questo bisognerà attrezzarsi comunque, perché in ogni caso poi uno cerca di evitare la sconfitta, evidentemente, insomma, al referendum, e quindi fare la campagna e stare dentro la campagna è un discorso, come starci e con quali contenuti è già un altro discorso, insomma, no? Da questo punto di vista, diciamo, per parlare delle campagne vere e proprie, anche qui c'è da sottolineare, ribadendo che comunque ancora la data non è fissata e che tutto dipenderà se il governo tiene o non tiene, il movimento dell'acqua la sta già in qualche modo strutturando la sua campagna, la sta preparando, insomma, no? C'è proprio il comitato promotore del referendum sull'acqua che mi sembra proprio nella mattinata di oggi terrà una conferenza stampa, e altre ne verranno non solo a Roma ma credo in parecchie parti d'Italia, per in qualche modo presentare questo discorso, insomma, in forma tale che poi sia compreso e divulgato dai mezzi di informazione, e quindi presentare all'opinione pubblica i quesiti che sono stati posti e che cosa c'è in gioco. Quindi ci sarà questa conferenza stampa, e per quello che diciamo il comitato promotore stesso ha fatto sapere, poi ci saranno, cominceranno una serie di iniziative un po' in tutta Italia, prevista anche una, mi sembra in concomitanza del Festival di Sanremo, insomma, un controfestival, chiamiamolo controfestival di Sanremo, ma insomma il pretesto è quello di utilizzare la kermesse che c'è intorno a questa iniziativa canora per viceversa pubblicizzare il tema dei referendum, il tema dell'acqua, eccetera, eccetera. E poi è in programma, già fissata da tempo, per il 26 marzo una manifestazione nazionale a Roma nel movimento dell'acqua, appunto, insomma, no? Che poi questo cada, lo ripetiamo ancora, nella campagna referendaria, perché da qui al 26 marzo il governo comunque tiene, sta in piedi e fisserà quindi la data del referendum o no, questo lo vedremo, insomma, nei prossimi giorni. Però ecco, qui il comitato promotore per il referendum dell'acqua, che non è quello di Di Pietro, perché ovviamente il quesito di Di Pietro è stato cassato dalla Corte Costituzionale, quindi Di Pietro da questo punto di vista non è in gioco, è in gioco perché, avendo raccolto le firme, evidentemente poi presumo che faccia la campagna, a meno di incredibili sorprese, ma insomma farà la campagna per il sì, ovviamente, all'abrogazione del decreto Ronchi e degli altri decreti che impediscono il ritorno alle società municipalizzate, diciamo, che gestiscono queste cose. Tu giustamente ricordavi che uno dei quesiti consentirebbe, è giusto usare il condizionale, qualora passasse, qualora fosse approvato dalla popolazione, consentirebbe il ritorno al settore pubblico, alla gestione pubblica anche di servizi come la raccolta rifiuti, che sappiamo tutti quanto è importante, insomma, in tutta Italia, a parte il caso eclatantissimo della Campania, di Napoli, eccetera, eccetera, e anche dei trasporti pubblici, cioè dei trasporti urbani, diciamo così, quindi il regime di aziende municipalizzate o giù di lì. Ecco, questo per quanto riguarda l'argomento acqua. Per quanto riguarda l'argomento nucleare, viceversa, qui le cose, come diciamo, sono più nebulose. Sottolineiamo subito che, e tu già l'hai detto in apertura, insomma, qui la controparte, a cominciare dal governo, ma soprattutto a cominciare da tutti i divulgatori e sostenitori di questa tecnologia del nucleare, per diversi motivi apparenti, insomma, no? Il nucleare non inquina perché non dà emissioni, il nucleare è più sicuro perché ci libera da gli arabi cattivi che non ci danno il petrolio, il nucleare è bello perché è una tecnologia avanzata, porta occupazione, insomma, a sostegno di questa tecnologia presentata come fantasmagorica, insomma, ci sono tantissimi argomenti da parte dei sostenitori, ma in particolare poi se andiamo a vedere chi sostiene campagne di questo tipo, a parte i portavoce degli interessi capitalistici alla Casini o qualche d'un altro, insomma, che da sempre quella parte democristiana, di origine democristiana, è sempre stata legata a doppio filo agli interessi delle società americane, che hanno sempre, cito la General Electric e la Westinghouse, che hanno sempre operato in questo settore. Poi c'è l'interesse specifico di quelle che prima chiamavo le multinazionali dell'energia elettrica, Enel e EDF, per dirla chiaramente, cioè l'Enel si conosce, l'EDF è l'Electricité de France, cioè l'ex ente elettrico francese, che oggi è anch'essa una SPA molto grossa, è la società elettrica più grossa del mondo per numero di dipendenti, per impianti, per produzione di energia, eccetera eccetera. La Francia è uno dei paesi più nuclearizzati, c'ha 63.000 megawatt di potenza nucleare installata, cioè l'80% della sua energia elettrica viene da fonte nucleare, quindi ha interessi grossissimi. È il paese che ha lanciato i cosiddetti nuovi reattori, l'EPR, che significa European Pressurized Reactor. Magari dopo ti chiedo anche qualcosa su questa nuova tecnologia, sì, avanzata di cui si parla. E quindi, insomma, siccome proprio Enel e EDF sono da tempo in società, da tempo significa da 5-6 anni in società, ma lo sono state anche negli anni 70 con l'avventura del Super Phoenix, non va mai dimenticato, l'Enel partecipò negli anni 70 alla costruzione di questo super reattore veloce che poi è finito nel nulla perché a causa di incidenti, insomma, tutta l'avventura dei reattori veloci si è dimostrata un fallimento. Quindi ci sono vecchie cordate, vecchie amicizie, vecchi interessi, insomma, che sono stati rinverditi da Sarkozy e da Berlusconi con accordi di 4-5 anni fa, e appunto il rilancio del nucleare in Italia dovrebbe passare attraverso questa joint venture tra Enel e EDF, che dovrebbero costruire almeno 4 reattori nucleari da 1600 megawatt di modello francese. Quindi in campo ci sono, prima di tutto, non va mai dimenticato, Enel e EDF. Gli spot televisivi che abbiamo visto tutti del Forum Nucleare, che è un sito che propaganda, eccetera eccetera, o uno studio ponderoso presentato al convegno di Cernobbio lo scorso settembre, che porta la firma della società di consulenza Ambrosetti, è finanziato, e c'è la firma, insomma, sotto, insieme a quella di Ambrosetti, anche lì da Enel e EDF, con i soldi di queste due società, che potete immaginare quanti ce l'hanno. Ma nel caso specifico dello spot del Forum Nucleare, addirittura questi soldi vengono dalle nostre tasche, dalle tasche di tutti gli italiani, perché nella legge che ripristina il nucleare in Italia era già previsto che fossero fatte campagne informative e che quindi fossero stanziati dei soldi, e una parte di quei soldi già è andata a finire lì. Quindi questi con i soliti impicci e imbrogli della classe politica italiana, insomma, già stiamo a questo livello qua. Volevo incalzarti un po' di più su questo aspetto, Giorgio, perché poi la cosa, come dire, molto subdola che sono riusciti a fare è proprio nel fare una propaganda che a loro modo di dire sarebbe in certo senso neutrale, e sta lì, diciamo, un po' tutto quanto l'inghippo. La fantomatica e pretestuosa neutralità, insomma, che starebbe come presupposto fondamentale del rilancio di questo dibattito in Italia sul nucleare sì o no. E la pubblicità che abbiamo tutti quanti visto ne è, diciamo, la prova provata di questo discorso. Ora, a prescindere da una serie di osservazioni che in molti abbiamo potuto leggere e che tanti hanno fatto sulla voce dell'uno o l'altro interlocutore più o meno rassicurante, sullo spazio concesso all'uno e all'altro, addirittura c'è chi ha associato i colori degli scacchi, insomma il nero e il bianco, alle proposizioni di chi è contro e a favore del nucleare. Certo, sono tutti aspetti che in un certo senso giocano nel far diventare lo spot più, come dire, convincente della sua presunta neutralità. Però secondo me, diciamo, il punto davvero nevralgico sta proprio nel fatto che si dà per scontato il fatto che si possono mettere di fronte queste due opzioni, che fino a poco fa assolutamente nessuno si sognava neppure di metterle di fronte. Cioè, oggi siamo arrivati in Italia al punto in cui è lecito e legittimo avviare un dibattito sulla presenza o meno del nucleare in Italia, quando c'è stato, come ricordavamo prima, un referendum chiaro su questo. E poi ci sono chiaramente a sostegno della, come dire, dell'anacronismo di questa, della logica del nucleare, della sua diseconomicità, dei suoi elevati costi, della mancanza di sicurezza. Ecco, a sostegno di tutto questo ci sono fior fior di posizioni. A dare oltretutto legittimità di neutralità al discorso sul rinnovo del nucleare in Italia c'è anche il fatto che, diciamo, a esserne investiti in prima persona sono state personalità che sono considerati un po' bipartisan. Alla presidenza, ad esempio, dell'agenzia nucleare c'è l'oncologo Veronesi. Ora, Grillo, diciamo, una campagna su questo in un certo senso l'ha fatta, chiarendo, insomma, quali sono gli sponsor della fondazione Veronesi. Lo stesso forum, presieduto da Chicco Testa, è sostenuto e sdoganato da proprio i consorsi e le multinazionali a cui facevi riferimento tu, perché ci stanno in mezzo Enel, Ansaldo Nucleare, Edison e quant'altro, insomma. Quindi innanzitutto mettiamo i puntini sulle i e diciamo chi c'è dietro questo battage pubblicitario, perché è importante che tutti conoscano il fatto che, insomma, sì, l'apparenza di neutralità in realtà nasconde, diciamo, interessi ben precisi, che se poi uno vuole alla fine riesce pure a svelare e evidenziare in modo molto molto facile, no? Guarda, su quello spot insomma si è sollevata parecchia polemica, no? Da parte ovviamente degli oppositori del nucleare e in particolare da tutto il settore ambientalista, insomma. Io però trovo che non si coglie, tu hai citato alcuni aspetti che sono di carattere subliminale, cioè quello spot contiene dei messaggi subliminali, per così dire, insomma, che ti fanno accattivanti il colore. Adesso io non lo so se c'è del vero o meno, però indubbiamente che quello sia uno spot sinuoso, quantomeno, che introduce un dubbio nel chi lo vede, lo ascolta, e soprattutto in chi ancora non si è fatto un'opinione oppure ha un'opinione approssimativa e quindi non è deciso, è combattuto tra false idee di progresso, più o meno convinto, più o meno in buona fede, e timori, diciamo, alla Chernobyl, no? del grave incidente, del disastro, della catastrofe, perché poi questi possono in qualche modo diventare gli estremi facilmente. Allora, per me la cosa più sottile di quello spot non è tanto questa, giusto smascherare chi c'è dietro e quali interessi nasconde, ma la cosa più sottile è che lo spot dice, e dice il sito di quel forum nucleare, che loro non sono contro le energie rinnovabili, loro sono a favore delle energie rinnovabili, ci vogliono delle energie rinnovabili, ma ci vuole anche un po' di nucleare. Questo secondo me è il mix energetico di cui parla il governo, no? Esatto, è il mix energetico. Mentre invece cosa ti fanno capire i sostenitori del forum nucleare? Che dall'altra parte invece c'è una sorta di isteria negazionista. No, solo rinnovabili. Ecco, questa secondo me è il messaggio più sottile di quello spot. Però, detto questo, automaticamente questo significa che dall'altra parte, cioè dal fronte antinucleare, proprio perché quello che emerge è solo un sì alle rinnovabili e no a tutto, più o meno, anche se non è così, no, però questa è l'immagine che arriva all'uomo della strada, insomma. E allora questo significa che c'è un ritardo, c'è una mancanza da parte degli oppositori al nucleare, di non aver articolato un discorso tale per cui quello che giustamente tu hai chiamato il mix energetico ragionevole, no? Un po' di nucleare e anche le rinnovabili, perché insomma eccetera eccetera. E perché non va bene? Insomma, se io dovessi essere uno sprovveduto, il padre dice: perché non ti va bene che ci sia un po' di quello, un po' di quell'altro? Cioè il discorso ridiventa sempre su un atteggiamento da un lato possibilista, dall'altro negazionista, ancorato a una ecologia, a un verde, a una green economy, se vogliamo parlare ancora per simbolismi eccetera eccetera, senza entrare nel merito appunto della questione energetica nel suo complesso. E quindi non una scelta fra una tecnologia e un'altra: la tecnologia nucleare è dannosa, pericolosa, costosa eccetera eccetera, mentre quella delle energie alternative è tutta bella, pulita e così via. Ma entrare una volta per tutte in che cosa, far capire che non è una scelta fra una tecnologia e un'altra, ma è una scelta di modello, di sistema, di modo di produrre, di concepire la vita stessa, insomma, in qualche modo, no? Se dobbiamo essere appunto schiavi del consumismo, per dirla proprio nel modo più banale, ma si può dire in modi più puntuali e più consistenti, oppure appunto per non essere schiavi del consumismo, allora dove dobbiamo collocare il problema dell'energia? Lo dobbiamo collocare appunto agli estremi del disastro, oppure mancanza di energia, il paese al buio, gli inverni al freddo, queste cose qui che pure insomma ogni tanto vengono presentate dai mezzi di informazione? Oppure dobbiamo, e 30 anni fa c'era questo discorso, insomma hai fatto bene a ricordare le differenze con 30 anni fa sul movimento antinucleare allora, perché si postulava quantomeno un cambiamento della società, no? Cambiamento strutturale, e quindi il movimento antinucleare stava dentro questo discorso, se non tutto, una buona fetta c'era dentro questo discorso. Oggi questo non c'è assolutamente, insomma. E questo è, a mio giudizio, è una critica che faccio sempre, una mancanza proprio dell'ambientalismo, dell'ecologismo, che pur essendo passati 20 anni è rimasto ancorato a questo punto di vista, sostanzialmente. Poi ci sono, c'è la decrescita, tanti ragionamenti si potrebbero fare, per carità, sempre a livello teorico e di pezzi di carta, perché questo stiamo parlando di questo. Però alla cosiddetta opinione pubblica, perché poi parlando del referendum arriva questo messaggio qui, cioè da 20 anni l'ambientalismo è fermo alle posizioni del no al nucleare, sì alle rinnovabili. Ancora oggi c'è un comitato che è tra l'altro l'espressione maggiore in senso numerico e anche di composizione, che tenterà di gestire come maggior comitato promotore per il sì al referendum questa campagna referendaria nucleare, la cui denominazione è comitato sia alle rinnovabili no al nucleare. Poi certo dici: ma se tu vai a leggere noi diciamo pure altre cose. Sì, ma è questo il messaggio sostanziale che arriva, insomma. E questo è un messaggio sterile, soprattutto perché è da 30 anni che si dice solo questo e non si è entrati nel meccanismo. In mezzo ci abbiamo avuto la privatizzazione del settore elettrico, è stata l'ira di Dio in questo paese, però siamo sempre fermi qui. Quindi un ragionamento critico sulle forze in campo e che sia anche autocritico, insomma, sarebbe auspicabile, fermo restando che poi ovviamente in campagna referendaria uno si schiera per il sì e quindi per il no al nucleare e per il sì ad abrogare le leggi che riportano al nucleare in Italia, insomma questo è fuori discussione, ci mancherebbe. Però insomma non facciamo finta che solo che il padrone è cattivo, che il governo è cattivo e per cui dipende tutto da lui, se questo ritardo eccetera eccetera, no, non è solo questo, insomma questo è proprio assolutivo, insomma assolutorio, scusate. E va bene, insomma, adesso ancora qualche istante di musica, poi magari qualche parola per così anche evidenziare i nostri motivi di contrarietà al nucleare, un po' di propaganda antinucleare, insomma, è bene che la facciamo anche noi, chiaramente, però poi la facciamo sempre per arrivare dritti al cuore del problema, e cioè la critica al modello di sviluppo, perché appunto si parla di mix energetico, si parla di fonti di energia rinnovabili, dell'eolico, del fotovoltaico, ma insomma poi il problema fondamentalmente è: a cosa ci serve tutta questa energia che dobbiamo andare a produrre? Se non ragioniamo su quello, non schiodiamo mai e soprattutto non arriviamo mai a pensare in termini di prospettive di cambiamento. Perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto Roma capoce splendida al tramonto, per molti un guanto, riflessa nello specchio dei negozi, persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi, mille facce, mille storie, mille volti, hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada, ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita, fredda che quel freddo ti rimane, a volte così calda che quel freddo te lo fa scordare, così viziata e vissuta nello stesso tempo, insegna quante volte c'hai da essere esperto, troppe volte ha visto l'amore passe rosso su una lama del coltello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma, hai detto quanto è bello, vietela a vedere dall'alto, scavalca il muro al fuori e vieni accanto, eccola, e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luna che mi è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Nato in mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città, chi nasce qua, qua ci resta. La gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me ma non ne vive neanche un attimo. Nada passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti. Quante ne ho viste e vissuto, ne ho fatte, sotto questo cielo giorno e notte. L'ho attraversata col motorino da parte a parte, o in metropolitana sotto il suolo sottostante. La sua forma è la mia forma, la Roma di chi se ne va ma che tanto poi ritorna. Tanti scenari da film per chi si ama, quante fontane per bere in ogni angolo di Roma. Negli anni 80 si girava con lo special 50, qualcuno ci aveva messo il 140, licenti che facevano una piotta e 30 e storie del genere, le cose grosse più le piccole per crescere. In mezzo a questo, sotto questo cielo vivo, ed un motivo c'è sta se lo scrivo. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Se Roma la città eterna non scende a patti, la Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi, la Roma degli sguardi che finiscono in scazzi, nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando, una sirena e stanno già scappando, via di qui tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo. La Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora, la Roma bene acchittata che per acchittar se paga, le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega, il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte di notte, stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. allora torniamo in voce dagli 87 e 900 e allora dicevamo facciamola un po' di propaganda antinucleare, è giusto che quantomeno Radio Onda Rossa la faccia, sebbene poi abbiamo anche articolato un discorso critico rispetto al modo in cui fino ad oggi è stato orchestrato il dibattito anche in seno al cosiddetto movimento, e al fatto cioè quindi che non vi è chiarezza di dibattito. I luoghi poi del dibattito mancano in ogni caso, non solo su questa vicenda ma anche su altre. Sta di fatto insomma che, come veniva sottolineato prima, è vero che negli ultimi anni e soprattutto la controparte, anche perché investita di ben altri mezzi, che ha fatto una propaganda, e la propaganda è per il ritorno del nucleare. Da questa parte in realtà si è fatto ben poco. In realtà poi per fare una propaganda antinucleare quasi non si saprebbe da dove cominciare, talmente svariati sono gli argomenti, diciamo, a sostegno di una posizione di netta contrarietà al ritorno del nucleare in Italia. Non lo so, possiamo iniziare a parlare del fatto che, visto che in tanti pongono la questione dell'asservimento a, diciamo, altre nazioni dell'Italia rispetto al problema energetico, vogliamo parlare del fatto che l'Italia comunque non ha giacimenti di uranio né possiede, diciamo, impianti di arricchimento dell'uranio stesso, ma soprattutto vogliamo parlare del problema strutturale, che le riserve di uranio non sono infinite e che tanti specialisti del settore indicano la fine di queste entro metà secolo, cioè 50-60 anni. Vogliamo dire ad esempio che in ogni caso le tecnologie di quarta generazione, così come sono definite, comunque hanno un'ascesa dei costi relativi alla produzione energetica abnormi, al punto tale che alcuni progetti stanno praticamente in via di ripensamento, o addirittura al fatto che si parlava anche della questione della spazzatura, non riusciamo a risolvere quella di questione in un paese in cui tra l'altro la filiera degli appalti ha sempre, diciamo, a che fare con la mafia, ma poi manco quello, perché l'abbiamo spesso detto anche da questi microfoni, non è che ci sia bisogno per forza dell'intromissione, dell'ingerenza mafiosa, diciamo, per far mandare a monte un progetto in cui c'è un appalto per arricchire lo speculatore di turno. Lo si fa anche senza che ci sia bisogno dell'organizzazione, ma lo si fa normalmente in Italia, insomma. I primi scandali proprio stanno proprio oggi e pochi giorni fa sulle prime pagine dei giornali, quello del Bertolaso della Protezione Civile e Compagnia Bella, da Napoli alle inchieste sul G8 eccetera eccetera. Insomma, per ora non ci sono infiltrazioni mafiose, lì sono fior di signori, no? Che si sono messi in tasca un sacco di soldi, insomma, stimatissime persone. Eh già, e quindi tanti potrebbero essere gli appigli, non ultimo, ecco, forse me lo scordavo, ma il più importante, collegato a quanto stavamo dicendo prima, la questione appunto dello stoccaggio, appunto delle scorie radioattive, dello stoccaggio, del deposito, dello smaltimento delle scorie radioattive, che qualcuno ancora si ostinerebbe a dire che non sono nocive, ma insomma davvero stiamo parlando di opinioni che non dovrebbero avere diritto di cittadinanza, insomma. Ecco, quindi gli argomenti sono tantissimi. Forse, ecco, quello sulle nuove tecnologie è quello che potrebbe incuriosire un po' di più Giorgio, perché se ne fa un gran parlare di questa tecnologia EPR, e, insomma, abbiamo detto appunto che i costi in generale sono talmente lievitati. Io so di un progetto in Finlandia che praticamente sta per morire proprio per questi costi fin troppo elevati, che potrebbero sopportare soltanto se a diciamo foraggiarli è la collettività, cioè se siamo noi, se c'è un impegno dello Stato in questo, e poi anche i tempi, mi sembra che di raggiungimento ottimale per fare in modo che queste centrali di quarta generazione abbiano davvero tutti i crismi della sicurezza, i tempi insomma di costruzione sono abnormi. Guarda, la nuova tecnologia, facciamo una precisazione, insomma, un conto è la quarta generazione, un conto è quella, sono i reattori come l'EPR che si stanno costruendo. La quarta generazione è ancora un progetto sulla carta, perché la quarta generazione riguarda teoricamente dei reattori che dovrebbero ridurre anche il volume delle scorie che vengono prodotte, dei reattori che hanno diciamo un utilizzo del ciclo del combustibile tra uranio e plutonio, reimpiegando quindi il plutonio che si ottiene dalla prima fissione dell'uranio con processi di ritrattamento molto costosi e anche molto inquinanti. Che l'insieme diciamo di questi aspetti costituisce il concetto base della quarta generazione, che però per affermazione degli stessi che la stanno studiando non sarà pronta prima del 2040-2050. E io ricordo che di questi progetti che si studiavano all'Enel già alla fine degli anni 70, si diceva che sarebbero stati pronti per il 2000-2010. Adesso hanno spostato da altri 30 anni, insomma, no, questa cosa. Quindi queste fantomatiche risoluzioni del ciclo dell'uranio per allungarne la vita, per dare maggiore consistenza e efficienza a tutto lo sviluppo dei reattori nucleari sono in qualche modo di là da venire, sono progetti che ci stanno già lavorando da 30 anni e che oggi ci dicono saranno pronti fra 30 anni, insomma. Quindi questo già dà il senso di quali difficoltà ci siano e di quanto sia ingannevole, diciamo, certo tipo di propaganda. Per quello che riguarda viceversa l'EPR, che poi sarebbe questo reattore di progettazione francese che si vorrebbe costruire in Italia, per cui c'è l'accordo con Enel e EDF che hanno costituito una società di cui non compare mai sui giornali, ma per essere esatti si chiama Sviluppo Italia, e che dovrebbe realizzare, se tutto va in porto, insomma, questi quattro reattori nucleari da 1600 megawatt. Questa tecnologia non è altro che la tecnologia dei reattori che erano stati progettati e messi in funzione 20-25 anni fa, con appena qualche ritocco. Quindi non c'è assolutamente niente di nuovo in questa tecnologia dal punto di vista concettuale e anche dei rendimenti di queste macchine, insomma, perché una cosa che va diciamo sottolineata rispetto alle magnificenze che si dicono della tecnologia nucleare essere una tecnologia avanzata di punta, eccetera eccetera, non sono affatto vere, insomma. Se i reattori nucleari hanno ancora un rendimento che non supera il 33%, insomma, è lo stesso rendimento che ci avevano i reattori costruiti 40 anni fa. All'epoca ce n'avevano 32-31%, sono aumentati di un 2%. Quindi è una tecnologia che finora, nonostante gli enormi capitali investiti, gli sforzi fatti, eccetera eccetera, gli studi, non ha migliorato praticamente di niente quello che erano già i reattori di prima, seconda generazione, insomma, ecco, per usare la terminologia che spesso troviamo scritta sui giornali. E questo di nuovo conferma che ci sono dei limiti intrinseci proprio nella formulazione, nella progettazione, nella realizzazione di questi reattori, insomma. In più, per quanto riguarda l'EPR, c'è da dire che è un prototipo, perché finora non ce n'è nessuno costruito, no? Il primo che si sta costruendo è quello a Olkiluoto in Finlandia, che tu citavi, e che doveva essere sostanzialmente già pronto, perché è cominciato 4 anni fa la costruzione, si prevedeva pronto per il 2012, mentre invece i tempi si sono talmente allungati, non raddoppiati, ma invece dei prospettati 3 anni e mezzo ce ne vorranno 6 per realizzarlo probabilmente, se va bene, e soprattutto sono raddoppiati i costi. E questo è un prototipo. Perché è un prototipo? Perché è vero, dice, ma no, questo non è un prototipo perché viene da un'evoluzione di quelli esistenti, ma qui non è che l'evoluzione della 500, insomma, no? Dice, sai, ho fatto la 500, poi l'evoluzione della 500 è la 600, ho aumentato un po' il no, non è così, insomma, passare da un reattore, perché quelli che stanno in funzione in Francia, che sono i più grossi e attualmente in funzione, sono da, arrivano a circa 1300 MW, passare a 300 MW in più non è come passare dalla 500 alla 600, insomma, non è la stessa cosa. Quindi vendono proprio del fumo questi signori, insomma, no? E infatti le difficoltà realizzative di questo reattore in Finlandia sono enormi, insomma, sono venuti fuori problemi di ogni tipo e ancora no, non sta funzionando, poi bisognerà vedere durante il funzionamento. Quindi questa tecnologia qui, degli EPR oppure dei reattori americani che sono un po' più piccoli, stanno al massimo su poco meno di 1300 MW, sia quelli della Westinghouse che quelli della General Electric, il modello della Westinghouse è l'AP1000 e qui in Italia c'è un'altra cordata che vede la 2A, è una società elettrica del nord Italia, abbastanza grossa, che parte da Brescia e raggruppa anche l'ex azienda municipalizzata, la AEM di Milano, insieme all'Ansaldo e insieme probabilmente a un partner estero che potrebbe essere la E.ON tedesca. Vorrebbero commercializzare in Italia questo reattore Westinghouse che è da, appunto, da circa 1300 mega. Quindi, e anche qui non è che pure per questo tipo di reattore ce ne siano già, dice, sai, ho comprato un reattore sperimentato, no? Che già ha funzionato. No, qui la cosa che dovrebbe sconcertare, insomma, l'uomo qualunque, il cittadino della strada, è quella di dire, ma tu ti compreresti 4 prototipi? Dice, vabbè, io metto in vendita un'automobile, un frigorifero, una lavatrice, quello che sia, insomma, un macchinario di un certo tipo. Ho fatto un prototipo, quanti te ne compri? Me ne compro uno, vedo come va. No, qui se ne comprano 4. Nessuno comprerebbe 4 prototipi, insomma, no? Proprio perché, essendo un prototipo, non si sa come andrà a finire, come, che risultati darà. E siccome questi reattori sono tra l'altro progettati per funzionare 60 anni, mentre i vecchi reattori erano progettati per 30-40 anni, almeno anche qui sono numeri che si dicono sulla carta, a progetto, poi è tutto da verificare se funzioneranno veramente 60 anni, insomma, però a progetto le promesse dei costruttori e dei progettisti sono che queste macchine potranno funzionare per 60 anni. Giusta la cosa che introducevi te prima, ma se l'uranio, le riserve d'uranio nel mondo vanno a esaurimento nell'arco di 50 anni o 60 anni, io costruisco il primo reattore in Italia, potrebbe entrare in funzione, ma non ci credo neanche più, diciamo nel 2020, ma diamo ancora per scontato che questi siano i tempi realistici. Se deve funzionare a 60 anni, almeno fino al 2080 ci deve essere l'uranio per alimentarlo. Se l'uranio finisce prima, ma se anche non finisce prima, diventa talmente poco nel mondo che costa l'ira di Dio un sacco di soldi, che ci faccio con tutti quei capitali spesi, insomma, che ci metto, insomma, no? Non è che al posto dell'uranio ci posso bruciare i trucioli, il cippato, che altra cosa, non è una caldaia un reattore, insomma, il reattore può funzionare solo con l'uranio, insomma, non c'è altro modo di farlo funzionare, quindi è anche una tecnologia rigida da questo punto di vista, no? E quindi questi però sono interrogativi che la truffa principale è questa di tutta questa proposizione, insomma, a parte gli aspetti tecnici su cui penso poi magari sicuramente avremo modo di entrarci in altre trasmissioni, in altre puntate, ma la truffa di opinione è proprio quella di dire accetta oggi accetta, cittadino, che ci sia il nucleare, accettiamolo tutti, no? Senza dire come si risolveranno problemi che sono rimandati tra 50-60 anni, per non dire 100, come il caso dello smantellamento di questi impianti, perché poi esiste anche una normativa internazionale che dice, approvata da tutti gli stati, ratificata, tutte queste belle cose qua, che dice che ogni progetto di carattere nucleare deve prevedere il suo smantellamento. Cioè non si può mettere in funzione un impianto se non si prevedono anche le regole, i passi necessari, i fondi necessari perché questo impianto a fine vita sia smantellato e riconsegnato il terreno alla, diciamo, collettività per altri usi. Ora, noi abbiamo, insomma, prima del referendum, delle centrali nucleari in Italia erano state costruite. Se questa questione che tu poni, cioè del fatto che ogni progetto deve contenere anche, diciamo, il progetto del suo esaurimento, ecco che possiamo vedere che la realtà è ben visibile a tutti, quanto insomma tutta questa questione abbia delle falle enormi, perché ancora le centrali dei 30-40 anni fa stanno ancora lì e evidentemente insomma le stesse non contenevano nemmeno una parte di questo progetto, insomma, cioè Montalto di Castro, ma anche mi sembra che ci siano dei problemi sulle scorie che furono prodotte già all'epoca, no? Diciamo, Montalto di Castro non è mai entrata in funzione, quindi non è un sito nucleare, quello che c'è è uno scheletro di calcestruzzo e di cemento armato, insomma, non è mai entrato una barra di combustibile nucleare, quindi, però le altre sì, Latina, Trino, Caorso e Garigliano dovrebbero essere smantellate, i processi sono lentissimi. Ma sono lentissimi non solo perché l'Italia, insomma, del dopo referendum dell'87 tutti i governi non hanno fatto niente da questo punto di vista, o poco niente, salvo mettere una sovrapprezzo sulla tariffa che paghiamo tutti e che vale un sacco di soldi in questi anni per lo smantellamento, per la fuoriuscita dal nucleare, quindi principalmente lo smantellamento delle centrali, la messa in sicurezza dei rifiuti, eccetera, eccetera. Ma non è solo un problema italiano, insomma, qui proprio perché i costi di questa operazione e le difficoltà a farle sono talmente grossi che tutti gli enti preposti alla sicurezza e tutti gli stati dove c'è una presenza di centrali nucleari vecchia, come l'Inghilterra per esempio, che ormai ce n'ha pochissime e molte le deve smantellare, o come negli Stati Uniti o come in Francia, insomma dappertutto, le previsioni di tempo per smantellare una centrale da capo a piedi e riconsegnare il sito agli usi collettivi, diciamo così, o comunque ad altri usi, so dell'ordine dei 100 anni. Allora, questa non c'è che un eufemismo, questa è una grossissima presa per il culo, perché ma chi è in grado di dire fra 100 anni quanto costerà quell'operazione? Oggi ti dicono, vabbè, abbiate fiducia sostanzialmente, mettete, firmate una cambiale in bianco. Poi i costi di smantellamento di questa roba costano lo 0,1, valgono lo 0,1%, no? Danno delle cifre stimate, budgetarie, insomma, ma chi è in grado di dire quanto costerà un'operazione valutata oggi fra 100 anni, fra 60 anni, fra 50 anni? E questa è una truffa proprio concettuale spaventosa, insomma, no? Però è oggi che devi decidere, e decidendo oggi consegni al futuro, alle prossime generazioni, delle incombenze spaventose, insomma, che so, di carattere economico, ma anche di carattere di sicurezza, di pericolosità, insomma, perché poi su tutto il discorso dei rifiuti, anche qui c'è una mancanza sostanziale di capacità realizzative di smaltire questi rifiuti, di trattarli in modo adeguato, insomma, recente il disastro avvenuto in Germania, perché non si può che parlare di disastro, anche qui se ne parla sempre poco, un deposito ad Asse, che era un'ex miniera di sale, di Salgemma, ci hanno infilato dei fusti radioattivi, 126.000 fusti, 130.000, l'ordine di grandezza è questo, di fusti contenenti rifiuti radioattivi, la miniera è stata infiltrata da acqua, da infiltrazioni d'acqua, i fusti si stanno corrodendo e rompendo con fuoriuscita delle sostanze radioattive, adesso devono delocalizzarli e portarli da un'altra parte. Quanto costa tutto questo? Ma chi dice 5, chi dice 10 miliardi di euro, insomma, andiamo a botte di questo tipo qua, insomma, no? Per un'avventura che se uno andasse a vedere i documenti dell'epoca c'erano geologi, scienziati, ingegneri, fisici, Pinco Pallino, parlamentari, giuristi, che giuravano assolutamente che quella miniera era stabile perché non era mai successo niente, quindi era un rifugio tranquillo e sicuro, insomma, ecco. Sfidare l'imprevedibilità della natura da questo punto di vista, perché non si può chiamare in altro modo senza voler passare per romantici, naturalisti, eccetera, eccetera, è veramente una truffa concettuale, un imbroglio concettuale, insomma, no? Essere certi, insomma, depositi che, insomma, negli Stati Uniti è famoso il progetto di Yucca Mountain, che sarebbe stato il più grande deposito geologico del mondo per rifiuti radioattivi. I progettisti, gli ingegneri, quando l'hanno terminato e poi è stato approvato dall'EPA, dall'ente di sicurezza, dal Senato americano e dallo stesso Bush, dicevano: questo deposito noi garantiamo che sarà in grado di resistere e di mantenersi in sicurezza per 10.000 anni. Insomma, io francamente vorrei vedere come si fa ad accettare una dichiarazione del genere, no? Chi ci sarà fra 10.000 anni a fare le pulci agli eredi del progettista? Il progettista sarà morto, saremo tutti morti, ma chi l'affidiamo la verifica di una cosa del genere, insomma? A meno di non credere in entità superiori che facciano eventualmente giustizia, insomma, no? È proprio un imbroglio di partenza, insomma, no? Che è insito in queste cose. Chi può garantire una cosa del genere? Infatti, tra l'altro, poi quel deposito, quel progetto è stato cassato da un ricorso a una corte federale, un ricorso presentato dall'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, perché il ricorso sostanzialmente diceva: è noto a tutti ed è scritto nei documenti di progetto che il picco massimo di radioattività di questa roba si raggiunge a 300.000 anni, quindi garantire un deposito per 10.000 anni non è conforme alle cose. O lo garantite per 300.000 anni oppure c'è sta una incongruenza tra... ed è stato accettato. Per cui, se qualcuno si era spinto a mettere una firma e dire che garantiva il prodotto del suo ingegno per 10.000 anni, per 300.000 anni non se la sono sentita più, insomma, no? Ma fa poca differenza secondo me tra 10 e 300.000, insomma, quindi è proprio qui, insomma, l'inganno che sta alla base di queste cose. E poi, insomma, come ultimo aspetto, come un altro degli aspetti che sicuramente attiene alla localizzazione degli impianti nucleari, è una militarizzazione del territorio, insomma. Soprattutto negli ultimi tempi e soprattutto nella legislazione italiana non si fa che riferirsi a segreti di Stato, opere di difesa militari, progetti e realizzazioni sottoposti a sorveglianza speciale, eccetera, eccetera, insomma, quindi i fili spinati, tutto quello che possiamo immaginare, presenze armate sul territorio, non ti può avvicinare. Adesso, se c'è per esempio uno dei depositi raffazzonati di scorie nucleari in Italia, è quello di Saluggia, che sta in provincia di Vercelli, alla confluenza vicino alla Dora, che poi confluisce nel Po. E quello, se provate ad avvicinarvi, ci sono, insomma, pattuglie a rotta di collo, controlli continui per la strada, perché, insomma, si temono attacchi terroristici veri, presunti, insomma, c'è tutta poi una materia da questo punto di vista che si sviluppa, la security, non più la safety, non più la sicurezza dal punto di vista delle radiazioni e quindi della sicurezza della popolazione perché va protetta, ma la security, cioè gli uomini armati, le presenze militari, i controlli e tutto questo, insomma, che certamente non, come si può dire, insomma, non è che che rafforzino nella gente, insomma, il fatto di sentirsi sicuri. Si sentono intimoriti, si sentono messi sotto controllo, messi sotto osservazione, insomma, si sentono appunto sottoposti a un regime che non che c'ha poco a che fare, insomma, con quelle che sono le aspirazioni, libertà, tutte queste belle parole, democrazia, insomma, libera circolazione delle merci, di quello delle persone, no? Tutti i trattati, che tutte le belle cose che ci diciamo sempre, o che dicono sempre, insomma, su niente confini, niente quello. Questo è territorio da filispinati, insomma, è territorio militarizzato, sottratto ad altri usi, sottratto a tutto, sottoposto a controllo, dove nessuno lì ci mette bocca, insomma, e non si sa quello che succede. E quindi, a proposito delle localizzazioni, come sappiamo sono ancora in auge soprattutto i vecchi siti, insomma quelli storici su cui anche all'epoca, prima dell'87, furono progettate le centrali. Si fa un gran parlare soprattutto di Puglia e Sardegna. Poco tempo fa, tra l'altro, sono stati bocciati, insomma, i proponimenti espressi a carattere regionale dalla Puglia per impedire la costruzione delle centrali nucleari in loco. Da questo punto di vista dobbiamo anche aggiungere che non è escluso che una di queste centrali possa essere costruita in territorio limitrofo al nostro, perché si parla anche del Lazio, chiaramente. In tutto ciò, insomma, la cosiddetta opposizione non fa altro che tentare la solita operazione del baratto, no? E quindi si propongono indennizi per le imprese la cui attività sarà sconvolta dalla presenza delle centrali, o al massimo, nella migliore delle ipotesi, gli indennizi vengono proposti per i cittadini che abitano nei pressi degli impianti, come se possono essere messe su un piano di baratto, insomma, la salute, la sicurezza, prospettive e qualità di vita con i soldi. Qui stiamo anche al di là dell'operazione Marchionne, cioè ti ammazzi però ti do qualche centinaio di euro in più se mi lavori e se mi fai lo schiavo, anzi, come quando voglio io. Insomma, ecco, quindi dal punto di vista politico diciamo che di mal di pancia ce ne stanno ben pochi. Ricordavi anche tu prima la questione della privatizzazione dell'Enel, che comunque è stata avviata in epoche di centro-sinistra, e le misure legislative in tal senso furono prese proprio all'epoca. Insomma, questo è il quadro di riferimento. E io, visto che siamo in chiusura, ti inviterei, Giorgio, brevemente proprio di chiudere con una riflessione riguardo al punto da cui siamo partiti, e cioè questa del modello di sviluppo, proprio perché poi non si può cascare nell'alternativa nucleare no, energie rinnovabili sì, se in modo acritico, senza partire da una critica a questo modello di sviluppo, da una critica del cosiddetto mix energetico 25 nucleare, 50 rinnovabili, mi pare che si dice, 25 combustibili fossili. Ma produrre tutta questa energia a che cosa ci serve? Siamo davvero è necessario che vengano prodotti quantitativi di energia così rilevanti, oppure un mondo, insomma, che tenga conto di altre necessità che siano vitali per gli uomini e le donne, e quindi non per il capitale, può anche fare a meno di quantitativi di energia così rilevanti? In due parole, se dovessimo non concludere, perché ripeto, insomma, sicuramente ne avremo opportunità e necessità, se si va ai referendum, di elaborare anche noi la nostra campagna, insomma, antinucleare, spiegando i motivi e così via. Però, insomma, avendo oggi parlato dei referendum, che dell'acqua e del nucleare, a me salta subito agli occhi una cosa, un'osservazione da fare, no, su queste due tematiche, ed è questa: che mentre il referendum sull'acqua, e quindi diciamo meglio anzi, il tema dell'acqua pone un quesito sotteso o esplicito che sia, a volte è sotteso, a volte è esplicito, che è quello di pubblico o privato, e il tema del nucleare non lo pone proprio. Cioè, mentre il dibattito sull'acqua ha posto, e sarà un pronunciamento di questo tipo, no? In senso politico sicuramente, poi si può discutere di tante altre cose, e questo certamente non risolve di per sé il problema generale, però perlomeno pone questo, insomma, no? Allora, l'acqua deve essere pubblica o deve essere privata? Quindi una scelta tra, e anche quindi un'allusione a un'idea di utilizzare certe risorse in modo da sottrarre agli interessi, al profitto, al capitale, e quindi di utilizzarle a fini pubblici. Poi qui è tutto da vedere, da capire come, perché, chi lo fa, in che modo, eccetera, eccetera. Però perlomeno già questo tema lo pone. E quello dell'energia assolutamente no. E nessuno che alzi il dito a dire, ma anzi, tutti quelli che oggi, o la maggior parte di quelli che oggi fanno la campagna antinucleare, sono stati a loro tempo promotori, fautori, sostenitori o comunque assenti quando, nel senso che non si sono pronunciati, quando il centrosinistra decise di privatizzare il settore elettrico, insomma, no? Che a sua volta era stato nazionalizzato nel 1962 sottraendolo alle società elettriche, insomma. Ecco. Questi, per quanto non so aspetti, che per quanto non esauriscono poi l'interrogativo che ponevi tu, cioè quello strutturale sul modello di sviluppo, però certamente fanno una differenza, insomma, no? Sarebbe sciocco, insomma, non tenerlo in considerazione. Il fatto che da una possibilità di in qualche modo programmare e pianificare i fabbisogni di energia, che non risolve il problema, perché comunque anche sotto l'ente nazionale per le energie elettriche i fabbisogni di energia erano funzionali a un modello di sviluppo che era sempre di questo tipo, insomma. Però perlomeno avevi degli strumenti, insomma, no? Oggi che tutto è affidato al libero mercato dell'energia, non c'è più nessun vincolo, e chi chiede un piano di programmazione energetica è un imbecille, insomma, no? Perché quello che guarda il dito e non guarda la luna, insomma. Non si può fare, perché l'energia, la produzione di energia elettrica è un'attività libera, la libera imprenditoria, e quindi c'è una proliferazione di impianti, c'è una proliferazione anche spaventosa in alcune regioni come la Puglia, ad esempio, delle energie rinnovabili, che mette veramente in difficoltà la popolazione, insomma, e prima o poi questo bubbone scoppierà grosso. E nessuno che rifletta sul fatto che questa situazione è anche frutto, non solo, ma è anche frutto di aver smontato e privatizzato un settore riconsegnandolo alla speculazione e al profitto. Il che, ripeto, non risolve il problema, perché poi dovremmo ragionare, come dicevi tu, quanta energia si serve, per quali scopi, per quali usi, e poi decidere come produrla, conseguentemente non decidere prima come produrla, a prescindere da se ci serve e non ci serve, per quali scopi. E però questo è un dibattito che allora rimanda nuovamente al fatto che referendum, non referendum, leggi, leggine, eccetera, eccetera, questo sono tutti non palliativi, ma sono tutti orpelli, diciamo, che sovrintendono ai processi reali di produzione, quindi ai processi di formazione sociale, di riproduzione della società, che stanno ancora una volta nel conflitto col capitale, insomma, no? E per cui, senza voler fare, insomma, un panegirico di carattere generale, però è indubbio che non si può sottacere questo aspetto, insomma, che se uno lo vuole affrontare, prima o poi in qualche modo bisogna cominciare a affrontarlo, insomma, e non ridurci a scegliere tra la tecnologia meno inquinante o più inquinante, che va sempre bene, ci mancherebbe, insomma, meglio di un calcio negli stinchi, però evitare di ritrovarsi poi, insomma, io lo anticipo, ma avremo modo di discuterne. Secondo me, per esempio, tutti che dicono al protocollo di Kyoto, i nuovi obiettivi 2020, io credo che al 20% di produzione elettrica da fonti rinnovabili ci arriveremo prima del 2020, ci arriveremo fra 4-5 anni, e però non sarà cambiato niente, cioè vedremo che a quel punto Allora dice, bene, quanto siamo stati bravi, abbiamo raggiunto gli obiettivi fissati del protocollo di Kyoto, perché ci arriva? Perché se ne stanno sviluppando un casino di energie rinnovabili, non è vero che non si stanno, c'è un articolo del Sole 24 Ore di pochi giorni fa che diceva che ci sono 130.000 megawatt, secondo me sono troppi, ma insomma si può essere sbagliato il Sole, ma sono comunque tantissimi, 130.000 megawatt sostenuti al Sole 24 Ore di energie rinnovabili, di domande, richieste di realizzazione, che finora in Italia ci sono 97.000 megawatt installati di centrali idroelettriche, termoelettriche, eccetera, eccetera. Figuratevi voi se ci aggiungiamo questi, perché non è dici aggiungo questi e scompare quell'altro, no. Non scompare quell'altro, perché nessuno vieta di mantenere tutto, non c'è un limite, non c'è una programmazione, è il mercato che regola, ma il mercato è regolato dal profitto, quindi finché c'è profitto ci sarà questo casino, questo caos, insomma. E quindi scopriremo magari fra 4-5 anni che abbiamo abbaiato la luna dicendo evviva evviva le energie rinnovabili, il capitale le energie rinnovabili le ha fatte, ma però la nostra qualità di vita, il nostro modello non è cambiato poi così tanto, insomma, rispetto a quelle che potevano essere le aspettative.